sempre. Credi in te, credi in me per sempre. Insieme spiccheremo il volo. Io non ti lascerò mai da solo. È il destino che ci ha voluto insieme. È la vita che ci ha voluto insieme. Tu sei lontano da me, ma non col cuore. Non sei lontano da me, le mie parole ci arrivano direttamente dentro me. Un tesoro custodito che c'è dentro me. Tua mamma ti guarda dall'alto, sì. Ha lasciato un angelo che mi sta sempre a fianco, accanto. Sai bene, mio caro amico, quello che sei per me. Passa l'amore ma non l'affetto che ho per te. Puoi avere mille donne ma un amico è di più. Io l'ho trovato in questa vita e non lo lascio più. Lo urlo al mondo quando ti voglio bene. Se noi ci facciamo forza affrontando sempre insieme. Ogni muro, ogni gioia, ogni difficoltà che questo mondo a noi due riserverà. Credi in me per sempre. Credo in te per sempre. Se vogliamo nella libertà in fondo al cuore di quest'anima. Credi in te per sempre. Credi in te, credi in me per sempre. Insieme spiccheremo il volo. Io non ti lascerò mai da solo. Credi in me per sempre. Credi in te per sempre. Se vogliamo nella libertà in fondo al cuore di quest'anima. Credi in me, credi in te per sempre.